in primo piano. Martedì 20 luglio, io cito subito in apertura il Sole 24 Ore, il tema economico del giorno. L'apertura è sostegno ai comuni poveri, questo è il titolo di prima pagina, perché è il federalismo che continua a fare i suoi passi, in questo caso federalismo municipale addirittura d'arrivo. Vedremo di cosa si tratta. Giovedì ci sarà un momento importante nel Consiglio dei Ministri. Come detto, la scelta dei giornali, alcuni, è proprio la vicenda delle commemorazioni di Via D'Amelio e le annesse questioni politiche. Mafia, lo strappo di fini, questo è il titolo di apertura della Stampa. Nel giorno di Borsellino un attacco a Dell'Utri, Mangano non è un eroe. Per il giornale, la piazza fischia fini, l'anniversario di Via D'Amelio, contestato a Palermo. Per il Fatto Quotidiano, invece, Palermo, Schifani scappa. Il presidente del Senato evita la piazza che ricorda Borsellino. Per il Messaggero, fini, Borsellino non fu solo mafia. C'è invece chi sceglie ancora la questione politica sull'onda dell'inchiesta sulla cosiddetta P3, come il Corriere. Questione morale? Noi onesti. Berlusconi, 4 casi ci sono anche tra preti e carabinieri. Per Repubblica invece così Carboni pagava Verdini le carte dell'accusa. Allora, come detto, ieri è stata una giornata importante di commemorazioni, le abbiamo seguite nel corso di questi giorni su Radio 24 e ieri è stato il clou. Nino Amadore, a pagina 17 del Sole 24 Ore, racconta la giornata di ieri. Fini, Mangano non è un eroe. Questa è la frase che certo ha fatto più discutere nel senso che ha creato l'ennesimo caso politico anche di rottura all'interno della maggioranza. Nino Amadore racconta proprio la giornata di ieri, tra l'altro con qualche parola anche strappata al procuratore capo di Caltanissetta, Sergio Lari. Chi è Sergio Lari e chi è a capo della procura? Quella procura che ha riaperto le indagini sulla strage di Via D'Amelio, quelle indagini per le quali il capo dello Stato Napolitano per l'appunto ha detto bisogna accertare, fare luce su questa strage e sulle stragi di mafia, su quel periodo della storia italiana. E il nostro sondaggio, come vi dicevo, e vi chiediamo se secondo voi ci sarà mai questa verità. Il procuratore Lari, citato da Nino Amadore, o si riesce a trovare oggi una chiave di lettura su questa strage o negli anni a venire non si potrà più sapere nulla, tranne che qualcuno dei protagonisti di quegli anni bui decida di collaborare con la giustizia. Ecco il punto, secondo Nino Amadore, secondo il procuratore Lari, è il momento chiave, insomma, ora o mai più, si potrebbe tradurre con uno slogan. Come detto, c'è stata questa questione politica, certo, portata da alcuni fatti. Intanto il perché, e lo chiederò poi a Salvatore Borsellino, il perché ci sia stato questo divieto vero e proprio, o meglio una persuasione a dire il capo del Senato Schifani non lo vogliamo a manifestare. Quasi una scelta che Libero critica dicendo la memoria è cosa loro, cioè decidono loro, il popolo delle cosiddette agende rosse. Vale a dire quell'agenda rossa questo popolo, a cui capo c'è proprio Salvatore Borsellino, fratello di Paolo Borsellino, dice quell'agenda è sparita dalla borsa di Paolo Borsellino e in quell'agenda ci sarebbero tanti dei misteri, degli appunti cruciali che il magistrato appuntava, e quell'agenda da cui non si separava mai non è stata più ritrovata nella borsa in Via D'Amelio dopo l'attentato. Perché Schifani non è stato gradito, diciamo così, mentre Fini invece è stato gradito, il presidente della Camera. Tanto che Salvatore Borsellino anche alla Stampa, pagina 3, fa un'intervista e dice ho sempre detto che è così, cioè che Fini ha ragione, Mangano non è un eroe, e gli ho stretto la mano. L'ultimo strappo di fini, anche la Stampa, Mangano non è un eroe, e per Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, quella di ieri è una nuova frattura nel popolo della libertà. Quella piazza antimafia tra Fini e Schifani, questo è il titolo di un commento che trovate a pagina 36 del Corriere della Sera, non è stato un bello spettacolo quello al quale si è assistito a Palermo. La presenza, prima contestata poi applaudita, di Fini si è affiancata all'assenza del presidente del Senato. Il siciliano Schifani era sgradito, si è saputo, al popolo delle agende rosse che ricordava la strage di Via D'Amelio di 18 anni fa, l'assassinio del giudice Paolo Borsellino, e dunque ha preferito non andare in piazza piuttosto che alimentare le tensioni. Se qualcuno, scrive Franco, aveva ancora dubbi sulla fine del Popolo della Libertà come partito di Silvio Berlusconi e di Fini, ieri li ha potuti eliminare del tutto. Fini ha evitato di essere travolto dalle grida di vergogna di alcuni contestatori solo perché ha replicato che anche per lui Mangano non è un eroe. Riferimento allo stagliere mafioso lodato di recente in modo assai discutibile dal senatore del PDL Dell'Utri. Gli effetti, al di là delle intenzioni, sono sconcertanti. Se un centrodestra è lacerato su questioni fondamentali, non si capisce come possa rinunciare a prenderne atto politicamente, dividendosi, scrive Massimo Franco. Tra l'altro ieri Dell'Utri in serata è intervenuto a ribadire: so bene che altri sono gli eroi rispetto a Mangano, ho solo detto che questa persona, Mangano, si è comportata da eroe nei miei confronti, non accettando di confermare accuse che mi riguardavano, che lui sapeva essere infondate. Solo questo. Dunque, ieri Dell'Utri è intervenuto a chiarire e a ribadire insomma il suo significato di attribuire l'eroismo a Vittorio Mangano. Come detto, approfondiremo poi alle 8:30, ma questo anniversario davvero ha creato e rischia di lasciare degli strascichi anche polemici e politici, di un nuovo rischio di frattura all'interno del Popolo della Libertà, tanto che Il Giornale, che come sappiamo è sempre molto molto duro nei confronti del Presidente della Camera Fini, la piazza fischia Fini, contestato a Palermo, il Presidente della Camera si salva seminando veleni antimafia. Questo Il Giornale, tra l'altro anche un finiano come Granata, che era ieri all'anniversario, anche lui ha rilasciato dichiarazioni molto, molto polemiche che hanno fatto discutere. Ha parlato per esempio di pezzi dello Stato, del governo e della politica che fanno di tutto per ostacolare le indagini sulle stragi di Via D'Amelio. È come una dichiarazione del genere all'interno della stessa maggioranza. La PDL Santelli dice parole gravissime, ora faccia i nomi a chi si riferisce. E Granata ribadisce: basta scorrere le agenzie per sapere a chi mi riferisco. Insomma, tensioni sicuramente sull'onda di queste commemorazioni anche all'interno del Popolo della Libertà, anche su questo fronte. L'altro aspetto, dicevamo, della politica che continua a fare grandi passi e trova sviluppi sui giornali è quello dell'inchiesta sulla nuova P3. Ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi è intervenuto soprattutto in due momenti, soprattutto alla sera in questo concerto sulla cima del Duomo per raccimolare dei soldi per la Guglia, ristrutturazione della Guglia centrale del Duomo. Il Premier e la questione morale, pagina 8 del Corriere, tutti angeli a parte 4. Non la pensa dunque come Tremonti, che parlava di una cassetta di mele marce, forse, ma molto meno. Su 100 persone, 1, 2, 3, anche 4 che non siano angeli si trovano sempre, in qualsiasi categoria, nei carabinieri come tra i sacerdoti, come in altri settori. Così Berlusconi ha parlato, ha liquidato la vicenda della cosiddetta P3. Ha parlato anche di Fini, ha detto: se qualcuno non vuole restare nel partito è libero di andarsene, nessuno lo trattiene. Un Berlusconi che non ha duettato con Charles Aznavour, anche perché ha detto: duettare con Aznavour? Io sono più bravo a cantare di lui. E ieri ha ribadito un'altra delle tematiche che in passato a me ha suscitato molto molto scalpore quando lo disse, ma passò un po' così in sordina con le polemiche non adeguate, secondo me. Ha ribadito: combatteremo e sconfiggeremo il cancro. Ieri Berlusconi, c'era anche tra l'altro a fianco a lui Don Verzé, il fondatore del San Raffaele, ha rilanciato la sfida di pochi mesi fa: combatteremo e sconfiggeremo il cancro. Questo lo ha detto ieri al concerto di Piazza del Duomo. Vabbè, poi ha anche detto la questione di Rosy Bindi ancora, no, ci trovate le polemiche. Ieri è andato a una università telematica, laureate, qui trovo delle laureate belle, non tipo Rosy Bindi. Ha attaccato anche Di Pietro parlando della sua laurea. per la quale tra l'altro è stato già querelato, e Di Pietro ha detto lo riquerelo. Sulla vicenda di Rosi Bindi c'è la Giorgia Meloni che ha detto in un'intervista a Repubblica, dice: Bacchetto il Cavaliere è una battuta ma è inappropriata, sbagliata, basta puntare alla bellezza o alla non bellezza delle donne. Insomma, quando si parla di estetica le cose non si fanno riguardo alle donne. Però dice Giorgia Meloni: anche la Bindi ha le sue colpe, questa presunta solidarietà femminile non la vedo affatto. Quando attaccano noi del centrodestra di essere gallinelle del potere o di essere ministre di Berlusconi perché abbiamo fatto carriera passando di letto in letto, beh, non abbiamo mai avuto solidarietà dalle donne del centro-sinistra. Mentre Francesco Merlo su Repubblica dice: la Bindi è diventata un'ossessione del Cavaliere, la prima volta che la criticai dissi che era stato scortese, stavolta è una questione di farmacia. Berlusconi non ha più bisogno di qualcuno che gli rammenti la sua verità estetica, ha necessità di una terapia, scrive Francesco Merlo. Il fatto è che un premier che racconta barzellette salaci e fa battute oltraggiose va biasimato e magari stroncato, ma suscita una sincera pietà un premier che si riduce a raccontare sempre la stessa barzelletta, un uomo potente che si degrada all'impotenza di ripetere sempre la stessa battuta, ogni volta ingiuria, sempre con le stesse parole, la stessa signora che tra l'altro non è il capo dell'opposizione, non è il suo avversario diretto, non è neppure il vigile del quartiere che gli fa le multe. Aggredire gratuitamente Rosi Bindi, sempre e solo sul piano estetico, è un invasamento paranoico. Così Francesco Merlo su Repubblica. Ma come detto, oddio, se la politica è questa, cioè stare a discutere delle battute, uno che fa le battute su Rosi Bindi, Rosi Bindi che replica arrabbiata e commentatori che commentano le battute su Rosi Bindi, vabbè, la politica in Italia è anche ormai scesa a questo livello. E poi c'è tutta la questione dell'inchiesta, che trovate sviluppata anche oggi in interrogatori verbali, per esempio il Corriere Pubblica, pagina 5, il verbale, lo fa anche Repubblica, insomma lo trovate sui vari giornali, dell'ex assessore Arcangelo Martino, uno di quelli arrestati. Interrogato in carcere, risponde al giudice: ma noi facevamo solo convegni, per me quelle telefonate sono solo poesie, fantasie, noi organizzavamo convegni. Tra l'altro al giudice che la interroga dice: guardi che qua non parliamo di politica, fa, ma lei è mai stata invitata a un convegno? No, per fortuna, risponde la giudice che lo interroga, non mi invitano. E Martino: questo è un guaio, sa, perché persone autorevoli come lei dovrebbero partecipare alla vita culturale del paese. Poi parla di Formigoni. Formigoni è un amico, è una persona seria che stimo tanto. Perché è accusato anche, non è indagato, però Formigoni è finito in queste intercettazioni nelle quali cercava, secondo qualcuno, di capire come fare, dopo l'esclusione della sua lista dalle elezioni, a rimediare. Era una porcheria, dice Arcangelo Martino, quella che stavano facendo. Al che la giudice prova a leggere le telefonate, Formigoni la chiama e dice che e Arcangelo Martino: mo non mi chiamerà più, stia tranquilla signor giudice, Formigoni non mi chiamerà più. E poi conclude dicendo: alle contestazioni di alcune telefonate in cui Lombardi, un altro arrestato, dice a questo Arcangelo Martino: amma fatta una figura e merda, questo ricorre spesso nelle telefonate, E infatti Arcangelo Martino dice: appunto signor giudice, dove sta la consistenza di tutta questa forza che avevamo? Se sono tutte figure di merda quelle che facevamo, scusi, ma dov'è il potere di questa associazione? È un'assemblea di figure di merda, creda a me. Quindi si difende così Arcangelo Martino, dicendo: facevamo solo delle gran figure di merda, altro che grandi organizzazioni. Mentre Formigoni si difende in un'intervista al Giornale a pagina 4 dicendo: non sono impigliato in questa rete, parla proprio di queste relazioni con Martino, di queste telefonate. Sabrina Cottone dice: ma perché quando lei fu escluso dalla lista, la sua lista fu esclusa dalle elezioni, perché lei chiamò Martino o fece chiamate con Martino? Guardi, ci siamo mossi in tutte le direzioni, abbiamo sentito legali, li abbiamo selezionati, ho sentito molte persone, ma non ho dato mai un mandato a nessuno. Qual è il rilievo che mi viene mosso? Aver dato un mandato a qualcuno, ma io non ho dato mandato a nessuno. E riguardo a queste telefonate con Martino, ma che ne so, guardi, la ricostruzione è quella che dico io. Non faccio migliaia di telefonate, non posso ricordarle tutte, ma io agisco per atti e i nostri atti sono regolari e depositati. Riguardo a questa inchiesta sulla P3, sa come la definisco? Come ha detto Berlusconi, quattro sfigati pensionati? Ecco, la penso come lui. Oppure la pensa come Arcangelo Martino, uno degli indagati in carcere, che dice: signor giudice, ma che P3? Facevamo delle assemblee di gran figure di merda, questa è la verità. Il traffico, poi ancora sulla questione politica e su questa vicenda, perché a Libero parla un altro degli indagati, l'ex assessore Sica della Campania, e poi parla anche in un'intervista Fedele Confalonieri. Il dossier anti-Caldoro è solo uno dei tanti. Parla a Libero in un'intervista a Gianluigi Nuzzi, che tra l'altro sarà nostro ospite per parlare delle vicende invece di mafia alle 8.30. Ernesto Sica, ex assessore regionale, quello del quale c'è anche una telefonata, e da qui parte l'intervista di Nuzzi, una telefonata in cui dice: adesso vado da Denis Verdini o mi candidano oppure dico tutto quello che è successo dal 2007 a oggi. E infatti inizia qui: ma come? Ma lei poteva ricattare Berlusconi? Ma che scherza, io. Collochiamo le frasi. Io dicevo: o mi candidate o remo contro di voi con una lista civica e racconto di come ci avete preso in giro. Ero stufo marcio, perché ogni volta che mi candidavano spuntava un no. Insomma, lei non è che sa qualcosa di piccante di Berlusconi. Piccante in che senso? No, sa, lei le si parlava delle sue visite a Villa Certosa. Sui giornali si maligna, chissà che avrà visto a Villa Certosa l'ex assessore Sica. Non ho visto nulla, nemmeno una meteorina. Ragazze, dice, ma va, manco una purtroppo, non ho avuto l'onore e mi dispiace anche, a chi non piace una bella femmina. E poi all'epoca io pesavo 75 kg in più, addirittura, e adesso 75 in meno, diciamo così. Comunque, dice, io mi ero scocciato politicamente, quindi altro che Villa Certosa, volevo andare contro di loro politicamente se non mi candidavano. Vabbè, lei è massone? Ma va! E il dossier contro Caldoro, quello sui trans, perché l'ha preparato? Ma non chiamiamolo dossier, diciamo che era una relazione per indebolire il candidato. Io volevo un candidato espressione di Forza Italia, lui, Sica, dice, io sono per Cosentino, e dunque... sa quante volte anche a me le relazioni mi hanno fottuto? Anche lei è vittima degli stessi metodi? Io avrò fatto una scemenza, una follia, ma non è che posso pagare. Le relazioni di indebolimento mi hanno fottuto per il Parlamento nel 2008, per la Regione nel 2006. Ho visto tanti candidati fottuti con tanti strumenti. Insomma, Sica dice che è una cosa normale fare delle relazioni, non li chiama dossier, relazioni per fottere gli avversari in politica. Così come invece parla Fedele Confalonieri in un'intervista a pagina 9 della Stampa con Luca Ubaldeschi, parte proprio da qui Carboni, ma Flavio Carboni è l'unico che ha dato una fregatura a Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi per terreni in Sardegna risoltasi nel nulla. È la sua referenza più forte. 30 anni fa era essere il socio del gruppo L'Espresso nel giornale La Nuova Sardegna. Questi signori, diciamo la verità, non combinavano proprio niente. Parlavano, finiva tutto lì. Come dice Arcangelo Martino, facevano delle grandi assemblee e delle figure di merda. Confalonieri dice: non si voterà presto, non credo che finirà così, non conviene a nessuno, vedo che la pars destruens, cioè questa della parte distruttiva, c'è, ma non vedo quella construence, dove si voglia arrivare. Parla anche della Lega, dice Confalonieri, forse sul caso Brancher dovrebbero chiarire qualcosa. Non vedo per Berlusconi un futuro al Quirinale, non è da lui fare l'arbitro. Insomma, Confalonieri, come sempre, quando parla, dice delle cose molto interessanti, perché Fedele Confalonieri è uno degli uomini sicuramente più vicini da sempre a Silvio Berlusconi. Intervista alla Stampa a pagina 9. Come detto, il Sole 24 Ore è sul federalismo fiscale, perché giovedì ci sarà, entro fine mese, il Consiglio dei Ministri e si deciderà il fondo perequativo per i comuni, come scrive a pagina 5 Eugenio Bruno. Due decreti subito per chiudere la partita con i comuni entro luglio. i restanti 3 decreti a settembre per esaminare il fascicolo di regioni nella sua interezza. Insomma, è la tabella di marcia sul federalismo fiscale messa a punto dal governo, che prenderà il via giovedì al Consiglio dei Ministri. Per l'appunto si comincerà con mettere i paletti alla spesa di sindaci e presidenti di provincia. Come, con quali risorse, lo spiega molto bene oggi il Sole 24 Ore in un'intera pagina, pagina 5. Tra l'altro voglio andare alle segnalazioni conclusive a dire: c'è un appello di Jovanotti, il cantante Jovanotti, che scrive sulla Stampa: dove sono finiti i fondi per l'Aquila? Si rivolge al ministro Bondi. Cantammo una canzone domani, una bella canzone incisa per l'appunto, molti artisti italiani la composero e la cantarono per raccogliere fondi per il terremoto. Sono stati raccolti 1.183.000 euro circa, messi nel Ministero della Cultura. E dice Jovanotti: scegliemmo proprio di devolvere il denaro a un ente governativo perché crediamo sia urgente e possibile ristabilire un rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Ora però, ministro Bondi, questi soldi che fine hanno fatto? Alle nostre ripetute domande sui tempi e i modi relativi all'utilizzo dei fondi, il suo ministero non ha mai risposto in modo chiaro. E dunque una lettera di un'intera pagina pubblicata dalla Stampa di Jovanotti: dove sono i fondi per l'Aquila raccolti dai musicisti italiani? Si attende, credo domani, ci sarà certamente la risposta del ministro Bondi. Trovate molto sull'acqua, la battaglia dell'acqua, un milione, incredibile, è una notizia passata sotto traccia, ma sono stati raccolti 1 milione per la precisione, ve lo dico la cifra perché il manifesto ci fa la prima pagina. 1.401.432 firme, record milionario per il manifesto, per il referendum contro una legge che è stata approvata sulla cosiddetta privatizzazione dell'acqua, che non è proprio così, ma la privatizzazione semmai dei servizi che gestiscono l'acqua. Il popolo del referendum invece vuole abrogare questa legge. La battaglia dell'acqua, un fiume di firme contro la privatizzazione anche su Repubblica, la trovate un po' ovunque. Ma io voglio chiudere con una citazione dal Secolo XIX e addirittura l'apertura di prima pagina del Secolo: scuola pubblica, addio. Per la prima volta in 46 anni un paese ligure, ma scrive il Secolo, forse anche uno dei primi paesi in Italia, Santolcese, ha deciso che alle scuole elementari non verranno più pagati dal comune i libri per i bambini. Comune in bolletta, il sindaco del PD dice: non ce la facciamo più a pagare, alle elementari i libri saranno solo a pagamento. Scuola pubblica addio. Per il Secolo XIX è una rivoluzione epocale, perché per la prima volta in 46 anni libri a pagamento anche in una scuola elementare ligure. È il segno per il Secolo dei tempi.